L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, 7 minuti dopo le 12 in diretta su Radio 24. Chiedo scusa per questa voce oggi un po' raffreddata, ma non sono l'unico qua. Dall'altra parte del vetro vedo Claudia Schiattone con un bel naso rosso che, insomma, complice in questa mattinata di virus. Allora, come ogni sabato, a raccontarvi la nostra Europa, l'Europa politica, quella che è l'attualità economica e la stretta cronaca viene narrata giorno per giorno da Radio 24. Noi il sabato cerchiamo di portarvi anche altri punti di vista, altre storie con questo programma che è in collaborazione con il network Euronet Plus, tante radio diverse, tante lingue diverse per raccontare un percorso comune. Le coordinate digitali euronetplus.eu è il portale che, come sempre, vi consiglio di visitare perché ci sono tante notizie, tanti reportage, tanti documenti anche in lingua straniera molto utili e molto interessanti. Oppure radio24.it è il nostro sito da dove poter poi riascoltare la puntata e trovare tutti i contributi extra. Ancora le nostre bacheche, dove invece captare i link relativi agli argomenti che andremo a toccare, chiocciola Federico Taddia oppure Euronet Plus R24 su Twitter e su Facebook. Si parte ogni settimana un viaggio. Oggi il grande protagonista con cui iniziamo è il cinema. Getting a film made means finding the finance. For many producers, this can become a real headache. But let's not think about that yet. Every year, Eurimage, the European Cinema Support Fund, receives more than 200 applications for co-production support. From all over Europe, these wing their way by the magic of internet to Strasbourg. Il 12 dicembre a Berlino, l'European Film Award, il premio che viene attribuito all'eccellenza cinematografica europea, al cui interno c'è anche un premio particolare, il premio Eurimage, il premio che decreta, grazie al fondo del Consiglio d'Europa, decreta chi punta sulla coproduzione, la distribuzione, l'esposizione del digitale, insomma chi crede nell'Europa come grande schermo in cui investire in idee, investire in risorse, investire in talenti e in visioni. Questo premio quest'anno verrà attribuito a un italiano, ad Andrea Occhipinti, produttore cinematografico e fondatore della casa di produzione Lucky Red, che abbiamo il piacere di avere qua con noi. Buongiorno Occhipinti. Buongiorno a voi. Beh, che credo sia una bella soddisfazione questo premio. Beh, sì, mi ha sorpreso un po', devo dire, quando è arrivata. Naturalmente, insomma, di grande prestigio ricevere un premio che poi riguarda un po' dei film che io ho coprodotto, dei film che sono stati poi hanno avuto il supporto di Eurimage, ma andando a vedere indietro, insomma, un po' quali erano questi film, fanno impressione, perché insomma ci sono tanti, c'è un po' il meglio dei talenti europei, perché ci sono film di Amenabar, ci sono i film di Sorrentino, i film dei fratelli Dardenne, veramente tanti film che sono stati coprodotti da Michael Haneke, che con Il Nastro Bianco vinse il Festival di Cannes. Insomma, ci sono 12 film che in particolare hanno avuto il supporto di Eurimage, che sono un po' nati da questa collaborazione con altri produttori europei. Mm-hmm. Ed è questo un po' lo spirito del premio, cioè favorire la collaborazione fra realtà produttive per produrre il meglio di quello che c'è in Europa. Infatti questo è significativo. Cosa significa fare cinema in visione europea? Al di là delle coproduzioni, nel senso al di là dell'aspetto economico che è fondamentale, però immagino ci sia anche altro quando si immagina un film di fatto senza confini, senza frontiere. Ma sì, insomma è una delle cose che noi in Italia dobbiamo fare in particolar modo. Noi abbiamo una forte cinematografia nazionale, non sempre questa cinematografia viaggia all'estero, nel senso che è molto pensata spesso su commedie, dunque l'umorismo è quello che soprattutto se è legato a dei comici o a dei diciamo caratteristiche di accenti regionali è più nazionale e meno esportabile. Quello che io ho cercato di fare come altri produttori, quello che dobbiamo fare a livello europeo, dove abbiamo questa caratteristica, è un mercato molto importante, molto variegato, ma con tante lingue diverse, con tanti mercati, piccoli mercati con caratteristiche e gusti diversi. quello di trovare dei film, trovare dei progetti che possano in qualche modo avere un sentire comune, che possano viaggiare non solo nel paese d'origine ma anche in altri paesi. Cioè, come succede? Questi film che poi sono spesso quei film, perché parliamo di film più di autore, perché certo, un'immagine supporta, diciamo, dei film con dei contenuti e non solo dei film di intrattenimento. Sono i film che poi vanno ai festival di Cannes, di Berlino, di Venezia, o vanno agli Oscar. Cioè, come dire, un po' il meglio, l'eccellenza di quello che l'Europa produce. Quindi ci sono margini. Poi viaggia anche al di fuori dell'Europa, naturalmente. Esatto, ci sono margini quindi per scommettere su nuovi registi, azzardare su nuovi talenti. Esiste questo spazio? Ma sì, esiste, l'abbiamo visto tante volte. Cioè, dall'Europa vengono tanti grandi registi, Amin Abar, con il quale noi abbiamo coprodotto due film, insomma in qualche modo l'abbiamo scoperto, è stato poi il regista che ha fatto The Others con Nicole Kidman, un regista che poi l'ultimo film Regression, che in questo momento nelle sale, è un film girato negli Stati Uniti. Cioè, sono talenti che poi, come succede una volta che vanno alla ribalta e diventano famosi, fanno anche progetti, diciamo, globali, che possono essere in lingua inglese con gli Stati Uniti e così via. Insomma, sono tanti quei talenti che poi hanno una risonanza, diciamo, non solo nei confini dell'Europa. Certo. Chipinti, un'ultima domanda: al di là del lato artistico, invece, in Italia ci sono le competenze per accedere a questi fondi, accedere a queste coproduzioni? Siamo capaci di farlo? Ma siamo assolutamente capaci. Se vogliamo, la debolezza del sistema Italia, sul quale stiamo intervenendo ultimamente, sia, come dire, come associazioni che come controparte il governo, è quella che è difficile per un produttore italiano trovare finanziamenti in Italia per una coproduzione. È più facile fare un film 100% italiano destinato al pubblico italiano che fare un film che invece abbia una visione in qualche modo internazionale, paradossalmente, perché l'attenzione è stata soprattutto su quello. Noi lo vediamo sia alla televisione, soprattutto alla televisione, la Rai pensa soprattutto alle prime serate, sì, che sono molto nazionali, così come il cinema delle commedie italiane è soprattutto un cinema nazionale, come dicevo prima. Poi ci sono questi autori che invece noi esportiamo, quest'anno tra l'altro al premio EFA uno dei candidati è Sorrentino con Youth, per cui ci sono anche, appunto, grazie a Dio abbiamo degli autori che poi vincono gli Oscar o vincono i festival e sono presenti nelle maggiori manifestazioni internazionali. Però, diciamo, l'Italia ha dato poca attenzione a questo aspetto, invece adesso si sta cominciando a farlo. Europeanfilmaward.eu, il sito ufficiale, oppure coe.it, come sempre, il sito del Consiglio d'Europa, per avere maggiori informazioni sia sul premio, sia appunto su tutte le possibilità e le opportunità proposte. Grazie davvero, Chipinti, complimenti. Grazie a voi, a presto. Buon sabato. Adesso ci fermiamo, un Europostit, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua, con l'altra Europa. Europostit. Drugs and Alcohol. Dal 7 al 13 dicembre il network europeo delle polizie stradali TISPOL promuove la campagna europea congiunta Drugs and Alcohol, droghe e alcol. TISPOL è la rete internazionale delle polizie stradali che sviluppa l'idea di una cooperazione operativa tra le polizie europee con l'obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali. Lo scopo della campagna Drugs and Alcohol è di effettuare in Europa durante l'intera settimana almeno 1 milione di controlli per l'accertamento della guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. I risultati a livello nazionale saranno resi noti a partire dal 17 dicembre 2015. Quelli europei saranno disponibili nei mesi subito successivi. Per saperne di più, consultate il sito tispol.org. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta l'altra Europa. Namaste, Wania. Like Martin Luther King, who has started. My dream, my dream, my dream, my dream, my dream. Tell you my dream is to live my dream. Yeah, the most I inna me sleep and me say. Tell you my goal, my goal, my goal. All of my goal is to reach my goal. Live a happy life, put it on me headstone. Nobody no fi cry over me dead. Look at me now, when them treat me less than gold. Put me in a box like a rectangle. La migrazione è una delle grandi sfide della nostra Europa. Vi abbiamo dato un assaggio sabato scorso di questo progetto, oggi ne parliamo più diffusamente. Abbiamo il piacere di ritrovare qui all'Altra Europa il fotografo freelance e fotoreporter Fabio Bucciarelli. Ciao Fabio. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora Fabio, da anni racconta i viaggi dei migranti e questi viaggi ora stanno diventando un sogno, un libro appunto, The Dream. Che cos'è? Esattamente, come dici, The Dream è un progetto iniziato nel 2011 sulla grande crisi migranti e profughi, effetto delle guerre, delle rivoluzioni conosciute come primavere arabe. Quindi è un progetto che porto avanti da 5 anni. Negli ultimi 5 anni ho viaggiato in diversi paesi per documentare appunto la loro vita, la vita di tutte queste persone, di questo nuovo popolo. Io lo chiamo nuovo popolo perché i numeri sono sconcertanti. Certo. I numeri della gente che sta scappando dalle guerre, soprattutto quella siriana, ormai è superato i 7 milioni di persone, tutti i profughi che stanno muovendo nel Mediterraneo. E quindi è un progetto sui profughi con un punto di vista più intimo, più onirico, ovvero delle immagini che descrivono l'intimità del profugo, la loro essenza come visti da un punto di vista molto umano. Mm-hmm. Quindi non immagini, tanto per intendersi, di gente che è sotto le coperte, che scappa dalla polizia o che attraversa fili spinati, bensì delle immagini di famiglie che hanno lasciato la loro terra alla ricerca di questo sogno. Fabio, il vero motore alla fine di questo viaggio. Esatto, ti ho chiesto di scegliere 3 foto che tentiamo di farle vedere anche radiofonicamente, poi comunque daremo anche il link di Kickstarter, che è la piattaforma dove hai lanciato il tuo crowdfunding e dove credo che queste foto siano pubblicate, visibili, poi comunque le rilanceremo anche sui nostri siti. 3 foto un po' metafore, insomma, di quello che è il tuo progetto, di quella che è la tua grammatica nel raccontare questa grande crisi. Sì, sono foto con un linguaggio diverso, come accennavo prima, un linguaggio più personale. Proviamo a descrivere le foto in radio, sì. Cosa che è molto difficile, essendo immagini. Sono fotografie, sono ritratti davanti a voi, per vedere dei ritratti di gente che dorme, quindi nel momento più intimo, descontestualizzate dal loro intorno, quindi con una luce spot che evidenzia solamente il viso di queste persone che dormono, per appunto tagliare fuori questo spazio fra noi e i profughi migranti, per renderli più umani. Mm-hmm. Un'altra immagine, se non sbaglio, è un'immagine di una moltitudine di persone appena arrivate in Sicilia, al porto di Augusta. Questo è stato coperto, documentato per le Nazioni Unite per 2 mesi, l'arrivo sulle coste siciliane, dove con i miei occhi ho visto più di 20.000 persone arrivare, la maggior parte proveniente appunto dai paesi subsahariani africani. Sì. E questa immagine per esempio vuol raccontare i grandi numeri di queste persone che si sono messe in viaggio. Sì. La terza invece è una spiaggia, è un mare, con una donna siriana. Una donna di spalle, esatto. Sì, una donna di spalle che guarda il mare in quel momento. Questa immagine è stata scattata in Turchia, ovvero nella zona vicino a Mersin, dove molte barche cominciano il loro viaggio, dove molti profughi e migranti cominciano il loro viaggio nella speranza di un sogno. Appunto questa donna guardando il mare rappresenta l'idea del guardare il futuro, di guardare quello che succederà, della speranza appunto di avere una famiglia, di avere un lavoro, di entrare in una società e di abbandonare il FabioBucciarelli.com è il sito per conoscere l'intero lavoro di Fabio. Fabio, sei ancora lì? Perché abbiamo sentito la linea andarsene. Sono qua, sono eccolo, qua. Sì. Un'ultima domanda. 5 anni sono un tempo lunghissimo, ma sono un tempo anche cortissimo. Hai visto qualcosa cambiare in questi 5 anni? Negli occhi di queste persone così diverse, con storie molto differenti tra di loro, immagino tratti comuni, speranze comuni, però anche tante diversità. Guarda, esattamente come dici, una cosa fondamentale sono queste speranze comuni, indipendente dal paese di provenienza. Negli ultimi 5 anni ho visto un incrementare del numero di sfollati, di migranti che cerca la speranza nei paesi europei, e questo è chiaramente un effetto di una politica internazionale che non ha considerato questo questo nuovo popolo, come dicevo all'inizio, e la mia speranza è proprio questa, quindi un'accettazione, che si consideri, si metta a fuoco questa miriade di uomini, di donne, di bambini che stanno cominciando il loro viaggio. Grazie davvero Fabio, complimenti per il tuo lavoro, gli occhi europei sui viaggi dei migranti. E su kickstarter.com è ancora aperto il crowdfunding o è terminato? Perché ricordo ho cominciato l'ultimo countdown, le ultime 24 ore. Perfetto, quindi insomma c'è il modo di vederlo. The Dream by Fabio Bucciarelli, le parole chiave per trovare il progetto. Grazie, ciao Fabio, ringrazio, complimenti. Buona giornata ciao a tutti. Europost-it. Lega Ambiente per l'Europa. In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, Lega Ambiente organizza a Milano il convegno Un clima diverso per l'Europa. L'Europa al bivio, per dare speranza e costruire una nuova cittadinanza. I temi trattati avranno a che fare con l'identità europea, che messa alla prova dalle trasformazioni economiche e sociali, dai cambiamenti climatici e dai nuovi diritti di cittadinanza, si ridefinisce continuamente. Si cercheranno le risposte possibili per rendere l'Europa capace di affrontare le sfide in modo adeguato, democratico, inclusivo e innovativo, e per costruire una nuova identità comune, superare le paure e restituire la speranza. L'evento si svolgerà il 10 dicembre all'Auditorium Acquario Civico di Milano. Per informazioni, legaambiente.it. This is Ava, a brilliant researcher with an interesting project. Ava wants to research the feasibility of teleporting molecules. To carry out her project, Ava is looking for support and funding. Someone told her about the ERC. The ERC is the European Research Council. Its funding schemes, open to individual researchers from all over the world, offer long-term... L'Europa, l'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità, che ci piace raccontare, e tra i tanti esempi ce n'è uno che, insomma, ogni volta che ritorna è veramente una boccata d'ossigeno. Perché prima parlavamo di sogni, beh, è una di quelle possibilità di concretizzare i propri sogni, o meglio trovare un faro rispetto ai sacrifici, rispetto alla possibilità di intraprendere la strada che si vuole. Sto parlando dei bandi del CERE, che è il Consiglio Europeo della Ricerca. Proprio ieri sono stati pubblicati i risultati del bando Starting Grants 2015. Si tratta di finanziamenti per giovani ricercatori con almeno 2 anni di esperienza dal conseguimento del dottorato. Sono stati 291 i progetti approvati, di questi 31 sono italiani, sono progetti di circa 1,5 milioni di euro per ciascun vincitore, per svolgere progetti di 5 anni di ricerca fondamentale, e questi progetti ti danno la possibilità di costituire anche un tuo team di ricerca, quindi fare proprio gioco di squadra. La scienza grande protagonista, ma anche le scienze umanistiche che da qualche anno entrano tra le attività promosse dal Consiglio Europeo della Ricerca. Tra i tanti ricercatori italiani abbiamo scelto una storia, ed è quella del progetto finanziato al dottor Matteo Milan dell'Università di Padova. Buongiorno Milan, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno Federico e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, beh, immagino anche per te tanta, tanta soddisfazione. Te l'aspettavi? No, assolutamente no, devo essere sincero, nel senso che io ho provato questo bando a febbraio del 2015, ero nel mio quinto anno dopo il dottorato e, come dire, l'ho provato senza nessuna aspettativa, e forse proprio per questo è stato uno dei progetti che credo di aver scritto meglio. Ho poi condotto l'intervista a settembre e grosso modo un mese e mezzo fa ho avuto la notizia ufficiosa della vittoria, che poi insomma ieri si è concretizzata nella pubblicazione ufficiale dei risultati. Tu sei specializzato in storia della resistenza, del fascismo e della violenza politica. Esatto. Questo finanziamento andrà ad aiutare che tipo di ricerca? Cosa farai? In realtà il progetto si chiama Il lato oscuro della Belle Époque, e ad analizzare gruppi armati, associazioni armate come gruppi premilitari, quindi quelli che preparavano i giovani per così dire andare in guerra, ma anche i club di tiro a segno e veri e propri gruppi paramilitari. Grosso modo nella maggior parte degli stati europei nel ventennio che precede la prima guerra mondiale. capito. E in modo da analizzare le componenti sociali di questi gruppi, le loro pratiche, quello che facevano quotidianamente e concretamente, ma anche il modo di pensare di molti dei loro membri. Uh-huh. Matteo, ma cosa succede ora nella sua attività? Nel senso che cosa cambia? Che si ha una prospettiva che forse fino a che prima era diversa, non era così chiara, non era... Io finora ho fatto un po' di ricerca in Italia, ho passato 2 anni in Inghilterra, ad Oxford, grazie a una borsa cofinanziata Marie Curie, sì. E adesso sto svolgendo un post dottorato all'University College di Dublino. Grazie a questa borsa, come dire, se tutto va bene, adesso siamo nella fase di contrattazione tra Unione Europea e Università degli Studi di Padova. Dovrei ritornare nei prossimi mesi appunto a Padova e avere, si spera, una posizione permanente all'interno dell'università, ma soprattutto di come dire, c'è l'opportunità, grazie ai fondi degli Starting Grant, di costruire un gruppo di ricerca che possa occuparsi per 5 anni di questo progetto. Insomma, appunto, perché c'è anche questa mobilità europea che riguarda i progetti finanziati dal Consiglio Europeo della Ricerca, con ricercatori che per seguire i progetti rientrano in Italia, altri che escono, è la mobilità che, esatto, che diventa anche valore aggiunto, no? Proprio perché ci si incrocia, si contaminano, certo, tra di loro ricerche e competenze. Complimenti davvero a te, complimenti a tutti gli altri italiani e tanti ricercatori e ricercatrici che hanno vinto questo bando, e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Adesso ci fermiamo, un Euro Post-it, la pubblicità, esatto, e poi ancora qua con l'altra Europa. Euro Post-it. 15 anni di Caffè Babel. Caffè Babel festeggia il suo 15° compleanno e per l'occasione ha deciso di pubblicare un libro che raccolga le sue migliori storie internazionali. Per realizzare questo progetto, la redazione è alla ricerca di 15 fotografi in 15 delle città in cui è presente. L'antologia raccoglierà 15 memorabili storie di Caffè Babel che rappresentino l'Europa in real life. Soprattutto Caffè Babel cerca fotografi nelle città di Bratislava, Bruxelles, Copenaghen, Siviglia, Varsavia e Zagabria. I fotografi selezionati avranno libera scelta sul soggetto e sul formato delle foto e avranno come riferimento un testo fornito dalla redazione, al quale dovranno accompagnare 3 immagini. Le candidature dovranno essere inviate entro il 21 dicembre all'indirizzo email redazione@caffebabel.com. L'altra Europa. Parlo io ere al Signor, ere le steles e lago, ere dut cecale, cecale al mondo. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa e adesso stiamo entrando in un'altra Europa particolare, che è quella delle lingue minoritarie. La casiva tuoi lu. Si chiama Suns, che in friulano significa suoni. È un festival che si è aperto il 25 novembre e continuerà fino al 12 dicembre a Udine e in altre località della regione, ed è il festival delle lingue minoritarie, il festival più importanti in Europa, il festival che cerca di mettere al centro arti performative in altre lingue, in lingue minori. Minori non ci piace, minoritarie è il termine esatto. E tante attività divise anche per sezioni, si è parlato di cinema, in questi giorni invece la prosa, la poesia e il teatro, grandi protagoniste, e tutto ciò verrà suggellato invece l'11 dicembre con un grande concerto in programma a Udine. E ospite d'onore di questa serata, dove ci saranno decine di gruppi, espressioni di altrettante comunità linguistiche, sarà Marco Brosolo, di cui sentiamo la voce in questa canzone e abbiamo il piacere di avere qua con noi. Buongiorno Marco, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora Marco, tu sei un artista, vivi a Berlino, vero? Sì, vivo a Berlino, sono a Berlino adesso. Ok, e cosa significa fare musica in lingua minoritaria oggi e farlo da Berlino, tra l'altro? Guarda, come hai detto tu, secondo me minore, minoritaria è da verificare come termine. Io di fatto parlo costantemente tre lingue attualmente qua a Berlino, e distinguere un maggioritario o un minoritario fra friulano, tedesco e inglese non mi è possibile proprio nella giornata, nell'ogni giorno, nella vita di ogni giorno. Significa cercare il giusto suono e la giusta intenzione anche nella singola sillaba per me. È un palco molto grande l'Europa, è complicato affermarsi con una lingua, mi viene a dire, così piccola, nel senso bello, anche accudente del termine. Sì, è complicato, ripeto, il mio lavoro ultimo, Cadremo Feroci, che presenterò a Sunds Europa l'11, sì? È concentrato sulle poesie di Federico Tavan, che sono state scritte originariamente in andreano, quindi una forma di friulano, quindi nel profondo del profondo, no? Però la mia volontà, siccome il poeta non è mai locale, è stata quella di togliere Federico Tavan per forza dal Friuli e portarlo ad una dimensione universale, che è peraltro quella della poesia, e quindi l'ho tradotto in quattro lingue diverse, a parte il friulano che era originario. Quindi secondo me bisogna saltare. Bello, bello questo invito. Andiamo a sentire, ad ascoltare insieme anche un altro spezzone di un altro brano, Pensiero. Che cos'è? Ce lo vuoi introdurre tu? Pensiero è una poesia di Federico Tavan che io ho trovato come una sorta di ritratto poetico a me stesso. Quando l'ho letta ho pensato, ma questa l'ho scritta io l'altro ieri. Non perché io sia in grado di scrivere come Federico Tavan, ma perché le parole che lui ha scritto sono perfette per qualsiasi persona ed essere umano, no? Mi ha colto effettivamente nell'essenza di quello che lui si sentiva in quel momento e di quello che io in quel momento. Mi auguro che tante altre persone come noi si riescono a intravedere dentro queste parole. Ascoltiamole insieme. Non mi fermo mai a fare bilanci, sono un fiume che andando a morire nel mare macina graffia accarezza sassi. Senza pensarci su, se ne vale la pena, I want to sing. I want to sing, but not the big songs. I want to sing for the little voices, perhaps seriously, maybe joking. Cadremo Feroci, un album multilingue ricco di sfaccettature a cui prendono parte diversi ospiti della scena musicale europea, canzoni interpretate in italiano, tedesco, inglese, francese, giapponese, e queste poesie originariamente scritte in friulano che mantengono la propria essenza. Questo è il cuore, questo è il lavoro di Marco Brosolo, lavoro che appunto sarà protagonista della serata finale venerdì 11 dicembre del Sun Contest, il festival europeo delle lingue minoritarie. www.sunscontest.com è il sito ufficiale di questo festival, che ricordiamo ha ricevuto anche il patrocinio del segretariato generale del Consiglio d'Europa, un progetto che vede tantissimi attori protagonisti, perché è veramente un lavoro lungo, complicato, ma molto molto bello. Marco, credo che insomma sia significativo essere proprio lì in quella serata con questo lavoro che di fatto lì nasce, lì trova il suo incipit. Sì, è molto significativo e molto importante per me, di fatto è un onore, perché appunto dall'estremamente piccolo, dall'estremamente profondo si arriva invece allo stesso tempo ad una dimensione europea, no? Quindi internazionale. Mi permetto di ricordarvi un brevissimo poema di Federico Tavan, che un po' mette insieme queste cose. Ridatemi l'altalena, voglio toccare il cielo con il culo. Eh sì, ci sono dentro veramente tante tante cose in queste poche parole. Marco, salutiamoci con Albero, un terzo pezzo che vede anche Bobby Solo, credo, protagonista, se non erro. Sì, sì. Albero è un brano particolarmente significativo all'interno di questo lavoro, perché non solo mette insieme appunto la lingua minoritaria con la lingua internazionale, ma anche diversi livelli di musiche che spesso sono ritenute pop, ma di nicchia. In questo caso appunto abbiamo un'icona straordinaria come Bobby Solo, che interpreta un brano che di fatto normalmente non sta nell'ambito mainstream. Quindi di nuovo è mettere insieme due mondi che apparentemente sono lontani, ma come spero si possa sentire, stanno perfettamente insieme. Albero, www.marcobrosolo.net per conoscere l'intero lavoro di questo artista, sunscontest.com invece per scoprire l'intero programma del festival. Marco, complimenti davvero, grazie, quindi l'appuntamento ricordiamo ancora l'11 dicembre qui a Udine per chiudere il festival. Grazie, ciao, buon sabato. Ci vediamo tutti a Udine, grazie a voi, ciao. Adesso noi ci fermiamo invece, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta l'altra Europa. I can change the world with my own two hands, make a better place. with my own two hands, make a kind of place. Oh, with my own two hands, with my own two hands, with my own two hands. I can make a peace on earth. 5 dicembre, giornata mondiale del volontariato. Oggi è una puntata dove insomma abbiamo il piacere di così fare segnalarvi tantissimi premi assolutamente importanti, molto diversi tra di loro, ma tutti molto molto degni di nota. E 5 dicembre, appunto, giornata mondiale del volontariato, viene assegnato ogni anno un premio molto importante, che è il premio del volontariato internazionale FOCSIV. Quest'anno c'è un di più molto significativo, perché è stato deciso di assegnare anche un premio al servizio volontario europeo, programma Erasmus Plus, e abbiamo il piacere di avere qua con noi chi ha ricevuto questo premio pochi minuti fa, credo proprio dalle mani del Presidente della Repubblica Mattarella. Diamo il benvenuto e facciamo i nostri complimenti a Enrica Miceli. Ciao Enrica. Ciao a tutti. Si sente l'entusiasmo nella tua voce ed è bello. Sì, esatto. Ciao Enrica. Siamo ancora qui al Quirinale. E infatti raccontaci la stretta cronaca, cosa è successo fino a pochi istanti fa. Oggi il Presidente Mattarella, per festeggiare la giornata internazionale del volontariato, ha premiato tutti i volontari, ognuno nel suo ambito di lavoro, protezione civile, carceri, servizio internazionale. Mm-hmm. E quindi abbiamo passato questa giornata insieme a lui. Ieri c'è stato un importante convegno anche appunto sul volontariato internazionale e l'agricoltura familiare. Dopo la Laudato Si, rappresenta anche l'onorevole Silvia Costa, presidente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo. C'è stata la cerimonia di premiazione e oggi appunto questo incontro con il Presidente della Repubblica. Enrica, tu sei giovanissima, ma hai già fatto tantissime attività di volontariato. Come mai sei stata scelta tu come simbolo di giovane volontaria europea? Ma io penso che il mio progetto è stato molto importante non solo per me, ma anche per la mia associazione di invio, AUSI, sì, e di FOCSIV, di cui siamo soci qui a Roma. E penso sia stato premiato la motivazione e la voglia di mettersi in gioco. Tu sei stata in un contesto che è diverso. Esatto, questo contesto era l'India, dove tu sei stata un anno a fianco di donne e bambini, credo proprio per fare attività di sostegno e di educazione. Esatto, sì. Mm-hmm. Ci siamo occupati dell'educazione dei bimbi, accompagnamento scolastico, piuttosto che attività ludiche, e poi anche assistenza alle giovani ragazze madri ospiti nel centro. Tu sei laureata in relazioni internazionali, cosa ti ha spinto a partire? La spinta è quella di lavorare nel campo della cooperazione internazionale, acquisire competenze possibili e soprattutto crescere dal punto di vista umano, mm-hmm, entrare a contatto con nuove culture, è stata un'esperienza fantastica. E cosa ti ha spinto invece a tornare? E a tornare perché paradossalmente quando vai fuori per tanto tempo, sì, riscopri anche i valori della tua cultura, la cultura italiana, quella europea, e quindi ero orgogliosa di tornare in Italia pensando di aver fatto qualcosa di buono per il mio paese. Mm-hmm. Enrica, immagino tu abbia incontrato anche tanti altri colleghi, tanti altri giovani che come te hanno fatto esperienze di servizio di volontariato europeo, di volontariato internazionale. Invece chi è indeciso per partire, quali sono secondo te le parole giuste, gli esempi giusti da dare? È un anno che tu, o un periodo anche più breve, che tu consigli di fare? Sì, assolutamente, consiglio a tutti i ragazzi che hanno voglia di conoscere, che hanno creatività, che hanno una forte motivazione e voglia anche un po' di confrontarsi con quelli che è una cultura straniera, diversi usi, costumi, e conoscere anche un po' meglio se stessi, perché è un'esperienza che ti coinvolge a 360 gradi. Io assolutamente lo consiglio e vi dico di mettercela tutta superando le difficoltà. Che comunque ci sono, vero? Sì, sì, ci sono, sì, da quando arrivi, sia in itinere per avviare il progetto, per trovare la collaborazione giusta, costruire relazioni di fiducia. Però con il tempo si costruiscono belle relazioni e si va avanti con il progetto. Foxive.it, questo è il sito per avere tutte le informazioni. Complimenti a Enrica Miceli, ricordiamo ancora, appunto, appena ricevuto dalle mani del Presidente della Repubblica Mattarella questo premio di, come volontariato internazionale, con europeo, quindi con questo sguardo particolare ai giovani e all'Europa. Complimenti ancora, ciao e buon lavoro. Grazie mille, ciao, buon lavoro a voi. E con questo premio chiudiamo la puntata dell'Altra Europa. Un grazie come sempre a tutta la squadra: Miriam Lucchetti, Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata, Gianmarco Ferronato oggi in regia, Claudia Schiattone e i suoi fazzoletti di carta invece in assistenza. L'appuntamento come sempre è a sabato prossimo. Radio24.it è il nostro sito, da lì potrete riascoltare la puntata, scaricarvi il podcast e trovare anche tutti i contributi extra, tra i quali i link relativi agli argomenti che abbiamo toccato, che potete trovare anche sui nostri profili sia in Twitter che in Facebook. Ancora grazie, ancora buon sabato da Federico Taddia. Ciao! L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.